Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. La fureria si anima. Himmelstoss l'ha messa in allarme. Alla testa della colonna trotterella il grasso furiere. Strano che tutti i furieri che si rispettino debbano essere grassi. Dietro a lui, assettato di vendetta, Himmelstoss, con gli stivali luccicanti al sole. Ci alziamo. Il furiere sbuffa. Dov'è Theaden? Naturalmente nessuno lo sa. Himmelstoss ci squadra con occhio cattivo. Lo sapete senza fallo, ma non lo volete dire. Fuori dunque. Il furiere guarda intorno con occhio indagatore. Ma Theaden non è in vista. Allora tenta un'altra via. Entro 10 minuti Theaden dovrà presentarsi in fureria. E parte con Himmelstoss alle calcagna. La prossima volta che ci manderanno a stendere reticolati, temo che un rotolo di filo spinato cadrà sulle gambe di Himmelstoss, osserva Krop. Dovrà farci divertire ancora, e non poco, ride Müller. E questa per il momento la nostra ambizione, farla dire al portalettere. Vado nella baracca ad avvertire Theaden perché scompaia. Poi cambiamo posto e andiamo a coricarci nuovamente per una partita a carte. Questo sì, lo abbiamo imparato. Giocare a carte, bestemmiare e fare la guerra. Non è molto a 20 anni, o forse è troppo. Dopo mezz'ora Himmelstoss ci raggiunge di nuovo. Nessuno gli bada. Si informa di Theaden, ci stringiamo nelle spalle. Ma avevate pure l'ordine di cercarlo, insiste lui. Come avevate? Domanda Krop. Sì, voi altri, qui. Vorrei pregarla di non darci del tu, pronuncia Krop con la maestà di un colonnello. Himmelstoss cade dalle nuvole. Ma chi si sogna di darvi del tu? Lei, io, signor sì. La risposta lo fa riflettere. Egli guarda Krop con la coda dell'occhio, diffidente. Non capisce dove l'altro vada a parare. Comunque, su questo argomento non si arrischia e formula cortesemente: non lo hanno trovato? Krop si sdraia sull'erba e dice: c'è già stato lei da queste parti? Ciò non la riguarda, ribatte Himmelstoss. Esigo risposta. Pronti, replica Krop e si alza. Guardi un po' laggiù, dove si vedono quelle nuvolette. Sono gli shrapnels. Ieri eravamo là, 5 morti e 8 feriti, e in fondo non era che uno scherzo. Quando fra non molto ci ritorneremo insieme, vedrà che i fanti, prima di morire, si presenteranno a lei sull'attenti e, battendo i tacchi, domanderanno rispettosamente il permesso d'andarsene. Proprio di gente come lei qui si sentiva il bisogno. E tranquillo torna a sedere mentre Himmelstoss si eclissa. 3 giorni di semplice, osserva filosoficamente Kat. La prossima volta tocca a me, dico io, a Albert. Ma è la fine. La sera, all'appello, inchiesta. Il nostro tenente Bertink siede in fureria e uno dopo l'altro ci fa chiamare. Anch'io devo comparire come testimonio e spiego perché Theaden ha commesso un rifiuto d'obbedienza. La storia dei piscia in letto fa effetto. Si chiama Himmelstoss e io ripeto le mie dichiarazioni. È esatto tutto ciò? Domanda il tenente a Himmelstoss. Quello si divincola, ma deve finalmente ammettere quando Krop depone nel medesimo senso. E allora Bertink domanda: perché nessuno si è messo a rapporto allora? Noi, zitti, deve ben sapere anche lui a che serve un reclamo per simili bazzecole in caserma. C'è in realtà modo di reclamare in caserma? In fondo ne conviene anche lui. Tanto che smonta subito Himmelstoss, facendogli energicamente comprendere che il fronte non è la caserma. Poi è la volta di Theaden, che si busca una predica coi fiocchi e 3 giorni di prigione semplice. A Krop, strizzando l'occhio, infligge un giorno di semplice e gli dice con rammarico: «Non posso fare altrimenti». È un bravo ragazzo il nostro tenente. La prigione semplice è piacevole perché si sconta in un ex pollaio. I due possono ricevervi le visite degli amici. Sappiamo come si fa a penetrarvi. La prigione di rigore invece è in cantina. Un tempo ci legavano anche ai tronchi d'albero, ma ora è proibito. Di quando in quando si ricordano già di trattarci come uomini. Un'ora dopo che Théoden e Krop sono rinchiusi nella loro gabbia, andiamo a trovarli. Théoden ci accoglie con un chicchirichì e fino a notte si gioca a carte. Naturalmente vince Théoden, quell'animale. Quando finalmente ce ne andiamo, Kat mi fa: «Che diresti di un'oca arrosto?» «Buono», dico io, e ci infiliamo su un autocarro portamunizioni. Il viaggio ci costa 2 sigarette. Kat ha individuato perfettamente la località. La stalla appartiene a un comando di reggimento. Io decido di prelevare l'oca e mi faccio impartire le istruzioni necessarie. La stalla è dietro il muro, chiusa soltanto da un cavicchio di legno. Kat mi tende le mani, io vi appoggio sopra i piedi e scavalco il muro. Intanto Kat farà da palo. Rimango immobile qualche minuto per abituare gli occhi all'oscurità. Poi riconosco la stalla, mi ci avvicino in punta di piedi, tolgo il cavicchio e apro la porta. Distingo 2 macchie bianche. 2 oche, è un guaio, se si acchiappa l'una l'altra grida. E allora animo, tutte e due insieme, se faccio presto la cosa va. Con un salto ne acchiappo una subito, l'altra un momento appresso. Batto furiosamente le 2 teste contro la parete per stordirle, ma si vede che non ho l'energia necessaria, perché le bestiacce si ribellano e con le zampe, con le ali, vanno battendo l'aria all'intorno. Io lotto come un disperato, ma accidenti che forza hanno questi animali, mi danno certi strapponi da farmi barcollare. Nell'oscurità quei 2 cosi sono orribili. Mi pare di avere 2 ali alle braccia. Ho quasi paura di essere trasportato per aria, come se tenessi 2 palloni frenati. Ed ecco, ahimè, comincia la musica. Una è riuscita a respirare un poco e grida da svegliare un reggimento. Prima che io me ne renda conto, qualcuno entra. Sento un colpo, ruzzolo a terra e odo un ringhiare furioso. È un cane. Io volto la faccia e lui già mi si avventa al collo. Allora faccio il morto e cerco soprattutto di stringere bene il mento contro il colletto. È un danese. Dopo un'eternità ritira la testa e si allunga al mio fianco, ma se appena tento di muovermi ringhia. E io rifletto. La sola cosa da fare è veder di mettere mano alla mia piccola rivoltella. Bisogna che me la svigni ad ogni costo prima che venga gente. Centimetro per centimetro muovo il braccio. Ho la sensazione che ciò duri delle ore. Ogni mio piccolo movimento provoca un ringhio minaccioso. Allora alt e poi nuovo tentativo. Quando finalmente arrivo a stringere la rivoltella, la mano comincia a tremare. La premo contro il suolo e ora so quel che ho da fare. Estrarre l'arma, sparare prima che la bestia mi possa addentare e poi gambe. Respiro profondo e mi calmo, poi, trattenendo il fiato, punto, sparo. Il danese salta via con un guaito, io guadagno l'uscio della stalla e inciampo in una delle oche fuggitive. Afferrarla, gettarla di slancio oltre il muro e arrampicarmi su io stesso è l'affare di un istante. Non sono ancora in cima che il danese ritorna in vita e mi salta le calcagna. Mi lascio cader giù a 10 passi da me, staccato con l'oca in braccio. Appena mi vede, via di corsa tutte e due. Finalmente possiamo tirare il fiato. L'oca è morta, Kat l'ha finita in un attimo. Bisogna arrostirla subito, che nessuno se ne accorga. Io tiro fuori una casseruola e della legna che ho portato dalla baracca e un momento più tardi ci infiliamo in un ridottino abbandonato che conosciamo, propizio a simili operazioni. L'unica finestruola viene ben mascherata. C'è una specie di focolare pronto, una piastra di ferro su 2 mattoni. Accendiamo il fuoco. Kat pela l'oca e la prepara a dovere. Mettiamo da parte con cura le penne per farcene poi ciascuno un guancialetto con la scritta suggestiva: dolce dormir sotto il fuoco tambureggiante. L'artiglieria del fronte avvolge del suo rombo il nostro rifugio. La luce della fiamma saltella sui nostri volti, strane ombre danzano sulle pareti, di quando in quando una sorda detonazione e il ridottino trema. Bombe d'aviatori. Una volta udiamo grida soffocate, una baracca deve essere stata colpita in pieno. Sussurro di aeroplani, ticchettio di mitragliatrici, ma dal ridottino non esce alcuna luce a tradire la nostra presenza. Così ce ne stiamo l'uno di fronte all'altro, Kat e io, due soldati in panni logori, intenti ad arrostire un'oca nell'alta notte. Non parliamo molto, eppure abbiamo l'uno per l'altro riguardi più delicati che una coppia di innamorati. Siamo due uomini, due povere scintille di vita, e fuori è notte e regna la morte. Noi sediamo al margine del suo dominio, minacciati e occulti, ma il grasso cola dalle nostre dita e siamo vicini coi nostri cuori, e l'ora è come il luogo. Luci e ombre delle nostre sensazioni oscillano qua e là con la fiamma del nostro focherello. Che cosa sa egli di me? Che cosa so io di lui? Vi fu un tempo che neppure un pensiero avevamo comune, e ora siamo seduti davanti all'oca e sentiamo le nostre vite così intimamente vicine che non vorremmo neppure parlare. Arrostire un'oca è cosa lunga, anche se è giovane e grassa, perciò ci diamo il cambio. Uno di noi a turno fa rosolare mentre l'altro dorme. A poco si diffonde un odore delizioso. I rumori di fuori ci fasciano come un sogno, e tuttavia il ricordo non svanisce interamente. Nel dormiveglia vedo Kat alzare e abbassare il cucchiaio, e lo amo. Lui, le sue spalle, la sua figura angolosa e china, ma al tempo stesso vedo dietro di lui una foresta e le stelle, e una voce buona mormora parole che mi danno pace. Pace a me, al povero soldato che coi suoi scarponi e con la sua cintura e col suo tascapane cammina sotto il vasto cielo, lungo la via che gli si stende dinanzi. Pace al povero soldato che presto dimentica e solo di rado ormai è triste, ma sempre cammina sotto il grande cielo notturno. Un piccolo soldato è una voce buona, e se gli deste una carezza forse non vi capirebbe più. Agli scarponi ai piedi e il cuore pieno di terra, e marcia così e ha tutto dimenticato fuorché il marciare. Non sono forse i fiori all'orizzonte? È una campagna così quieta e serena che gli vien voglia di piangere? Non sorgono là immagini di cose che egli non ha perdute perché non le ha possedute mai, di cose che lo turbano ma che per lui sono passate via? Non sono là i suoi 20 anni? Che è questo umidore in faccia? E dove sono? Davanti a me è Kat, gigantesca ombra china che mi protegge come la casa paterna. Egli parla piano, sorride e torna al suo fuoco, poi dice: è pronto. Sì, Kat. Mi riscuoto. In mezzo al locale splende l'arrosto dorato. tiriamo fuori le nostre forchette a molla e i coltelli da tasca e ci prendiamo ciascuno una coscia del volatile. L'accompagniamo con fette di pagnotta intrise nel sugo. Mangiamo adagio, assaporando. Ti piace, Kat? Buono. E a te? Anche a me, Kat. Ci sentiamo fratelli e a vicenda ci tendiamo i bocconi più succulenti. Finito il pasto, io accendo una sigaretta, Kat un sigaro. Una buona parte dell'oca è avanzata. Che ti pare, Kat, dovremmo portarne una porzione a Krop e a Tiaden? Giusto, dice lui. Tagliamo una porzione che avvolgiamo in un giornale. Il resto, a dire il vero, lo si vorrebbe riportare alla nostra baracca. Ma Kat ride e dice solo: Tiaden. Vedo anch'io che dobbiamo portare tutto a quei due. Così ce ne andiamo al pollaio a svegliare i due prigionieri, ma prima riponiamo con cura le penne per noi. Krop e Tiaden ci prendono per una fata morgana. Poi le loro mascelle si mettono a macinare. Tiaden addenta un'ala enorme che tiene a due mani come fosse un flauto e mastica. Poi bevi il grasso dalla casseruola e schiocca le labbra. Ragazzi, questa non la dimentico. Ora torniamo alla nostra baracca. Sopra di noi il cielo, ancora pieno di stelle, comincia a sbiancare ed io cammino nel crepuscolo, povero soldato dai grossi stivali e dalla pancia piena. Ma accanto a me, curvo e angoloso, cammina Kat, il mio compagno. I contorni della baracca si staccano in nero sull'alba grigia con la promessa d'un lungo, benefico sonno. Si riparla di offensiva. Torniamo in linea due giorni prima del solito. Cammin facendo, oltrepassiamo un edificio scolastico distrutto. Lungo il suo fianco s'accatasta una doppia muraglia di casse da morto, nuove, chiare, appena piallate. Odorano ancora di resina, di pino, di bosco. Sono perlomeno un centinaio. Si è provveduto bene per l'offensiva, dice stupito Müller. Quelle sono per noi, brontola Detering. Ma Kat lo investe. Non dir fesserie. Ringrazia Dio se puoi ancora ottenere una cassa, ghigna Tiaden. Alla tua faccia di pipa sarà molto se passeranno un telo da tenda. Anche gli altri scoccano di queste sinistre freddure, ma che altro possiamo fare? È un fatto che quelle casse sono per noi. In queste cose l'organizzazione è perfetta. Il fronte è tutto in subbuglio. La prima notte cerchiamo di orizzontarci. E poiché i tiri sono radi, possiamo sentire il rullare dei convogli dietro le linee nemiche, ininterrotto fino all'alba. Kat dice che non se ne vanno, ma continuano a portare truppe, munizioni, pezzi d'artiglieria. L'artiglieria inglese è rafforzata, ce ne accorgiamo subito. A destra della fattoria sono piazzate, oltre le solite, almeno 4 batterie da 205 e dietro il tronco del pioppo sono installate 9 bombarde. Inoltre hanno messo in linea anche una quantità di quelle bestiole francesi, i lancia spezzoni. Siamo molto depressi. 2 ore dopo che siamo in trincea, la nostra artiglieria ci spara addosso. È la terza volta in 4 settimane. Se dipendesse da errori di puntamento non ci sarebbe niente da dire, ma il guaio è che i pezzi sono fuori uso. Il tiro diventa così impreciso che i colpi cadono fin nel nostro reparto. Questa notte ci rimettiamo 2 feriti. La prima linea è una specie di gabbia in cui si soffre l'attesa nervosa di ciò che sta per avvenire. Viviamo sotto la traiettoria incrociata delle granate nella tensione dell'ignoto. Sopra di noi pende il caso. Quando un colpo arriva, tutto quel che posso fare è di rannicchiarmi. Dove vada a battere non posso sapere né influirvi. È appunto questo che ci rende indifferenti. Alcuni mesi fa mi trovavo in un ricovero a fare una partita. Dopo qualche tempo mi alzai e andai a trovare alcuni amici in un altro ricovero. Quando ritornai non trovai più nulla del primo, che era stato annientato da un grosso calibro. Tornai allora al secondo e giunsi in tempo per aiutare a dissotterrarlo, perché nel frattempo era franato. Per puro caso posso essere colpito, per puro caso rimanere in vita. In un ricovero a prova di bomba posso essere schiacciato come un topo e su un terreno scoperto posso resistere incolume a 10 ore di fuoco tamboreggiante. Ciascuno di noi rimane in vita soltanto in grazia di 1000 casi. Perciò il soldato crede e fida nel caso. Dobbiamo stare attenti al nostro pane. I topi si sono enormemente moltiplicati in questi ultimi tempi, da che le trincee non sono più così ben tenute. Detering pretende essere questo il segno più sicuro d'aria pesante. Particolarmente ripugnanti sono qui i topi per via della loro grossezza. È la razza che si chiama dei topi di cimitero. Hanno orribili musi, glabri e cattivi, e le loro lunghe code prive di peli danno un senso di nausea. Hanno l'aria di essere molto affamati. A quasi tutti noi hanno smozzicato il pane. Crop ha bene avviluppato il suo nel telo da tenda e se lo tiene sotto la testa, ma non può dormire perché gli trottano continuamente sul viso per arrivare al pane. Detering invece ha voluto fare il furbo. Aveva attaccato al soffitto un filo di ferro e a questo legato il pane. Di notte accende la lampadina tascabile e vede il suo filo di ferro che dondola in qua e in là. Un topaccio stava a cavallo sulla pagnotta. Infine decidiamo di farla finita. Tagliamo via con cura i pezzi di pane che le bestiacce hanno addentato. Buttar via le pagnotte non si può sotto pena di rimanere domani senza mangiare. Raccogliamo per terra in mezzo i pezzetti così tagliati. Ciascuno prende la sua vanghetta e si mette in posizione di combattimento. Detering, Krop e Tiaden tengono pronte le lampadine tascabili. Dopo qualche minuto sentiamo rosicchiare e mordere. Il fruscio si accresce. Ormai udiamo lo scalpiccio di molte zampette. Allora le lampade scattano e tutti insieme diamo addosso al mucchio nero che schizza in tutte le direzioni. Il successo è buono. Gettiamo i topi fatti a pezzi fuori della trincea e ci appostiamo nuovamente. Il colpo ci riesce 2 o 3 volte ancora. Poi le bestiacce si sono accorte di qualche cosa o hanno fiutato il sangue. Non compaiono più. Tuttavia ciò che avanzava di quel pane il giorno appresso è sparito. Nel reparto vicino i topi hanno assalito, morsicato e in gran parte divorato un cane e 2 grossi gatti. All'indomani ci distribuiscono formaggio d'Olanda, quasi 1/4 a testa. In un certo senso è buona cosa perché il formaggio piace a tutti, ma in un altro senso è brutto segno perché quelle grosse palle rosse hanno sempre annunziato le giornate più terribili. Il nostro presentimento si accresce quando vediamo distribuire anche la grappa. Naturalmente si beve, ma non siamo propriamente allegri. Per tutta la giornata non abbiamo altra distrazione che quella di tirare sui topi e gironzolare qua e là. Viene aumentata la dotazione di cartucce e di bombe a mano. Quanto alle baionette, le ispezioniamo personalmente. Ve ne sono che hanno il dorso fatto a sega. Quando quelli di là trovano un simile gingillo a qualcuno dei nostri, lo sgozzano senza misericordia. Nel settore vicino hanno ritrovato dei nostri ai quali con le stesse seghe avevano tagliato il naso e cavati gli occhi, riempiendo poi bocche e nasi di segatura per soffocarli. Alcune reclute sono ancora fornite di sciabole e baionette di questo tipo, le facciamo sparire e ne procuriamo loro delle altre. La sciabola baionetta, del resto, ha perduto molto della sua importanza. Per gli attacchi è venuto ora di moda avanzare soltanto con bombe a mano e vanghette. La vanghetta da trincea affilata agli orli è assai più leggera e di migliore uso. Serve non soltanto a colpire sotto il mento, ma a menare gran fendenti con efficacia assai maggiore. Quando si vibra il colpo fra la spalla ed il collo, si spacca talvolta il nemico fino al petto. Invece la baionetta resta sovente conficcata nel corpo dell'avversario, sicché bisogna puntargli i piedi sulla pancia per liberarla e nel frattempo ti arriva qualche colpo. Inoltre qualche volta si spezza. A notte si dà l'allarme dei gas. Aspettiamo l'attacco e ci corichiamo a terra con le maschere preparate, pronti ad applicarle alla prima ombra che si veda. Ma si fa giorno senza che accada nulla. Solo quell'eterno rotolare lontano che logora i nervi, convogli su convogli, autocarri su autocarri, che diavolo stanno concentrando. La nostra artiglieria li bersaglia di continuo, ma non cessano mai, non cessano mai. I nostri visi sono stanchi e ci diamo una guardata l'un l'altro. Sarà come sulla Somme, 7 giorni e 7 notti è durato il fuoco tambureggiante, dice Cat nero nero. Da che siamo qui ha perduto il suo buon umore. Cattivo segno anche questo, perché Cat è un vecchio lupo di trincea e ha un fiuto straordinario. L'unico che se la gode con le doppie razioni e col rum è Tiaden. Arriva persino a sostenere che ce ne andremo tranquillamente a riposo e che non accadrà nulla. Per qualche tempo i fatti sembrano dargli ragione. Passa un giorno dopo l'altro. Di notte sto nella buca degli osservatori in vedetta. Razzi e racchette salgono e ricadono sopra la mia testa. Vigile, coi nervi tesi, col cuore che mi batte, l'occhio mi torna di continuo alla placca luminosa dell'orologio. Ma pare che le sfere non vogliano andare avanti. Il sonno appesantisce le mie palpebre e mi sforzo di muovere continuamente le dita dei piedi nelle scarpe per rimanere desto. Non accade nulla finché vengono a darmi il cambio. Nient'altro che quell'eterno rullare laggiù. A poco ci tranquillizziamo e facciamo interminabili partite a carte. Chissà che la sorte non ci sia propizia.